Tra le perle culturali di Bologna c'è un teatro che non è chiaramente vicinissimo al centro perché si trova a Lavino di Mezzo, pur essendo ancora nel comune di Bologna, è il Teatro Ridotto. Parliamo della nuova stagione che si chiama Chimere con la direttrice artistica Lina Della Rocca. Il Teatro Ridotto è al confine tra Bologna e Anzola dell'Emilia. Si può raggiungere con l'autobus 13, questa rassegna che partirà il 21 di gennaio, andrà avanti fino al 10 settembre. Comprende spettacoli di prosa, danza, di vari linguaggi indonesiani, eccetera. Abbiamo visto che c'è nella programmazione una continua intersezione tra varie arti, c'è anche molto spazio ai giovani, a partire dall'inizio, dal 21 gennaio, in cui ci sarà Filippo Poppi e la sua band che coinvolge un progetto che coinvolge ragazzi giovanissimi delle scuole bolognesi come musicisti. Sì, e Filippo Poppi nasce come attore clownesco, ha studiato con i fratelli Colombaioni, frequenta il Teatro Ridotto da ormai più di 20 anni e poi a seguire i progetti, diciamo, speciali, appunto sono anche quelli pedagogici con la Casa dei Risvegli che per la seconda volta collaborano con il Teatro Ridotto coinvolgendo gruppi giovani di teatro per uno scambio culturale teatrale. E quindi per il Teatro Ridotto ciò che importa è non dimenticare da dove siamo partiti, quindi non lasciare indietro i maestri, ma farli incontrare con gli allievi. Quindi giovani e maestri devono incontrarsi, altrimenti si perde la tradizione della maestria. Si perde la tradizione dell'apprendere e noi invece il motto è apprendere ad apprendere sempre. Quest'anno ci sarà anche una ricorrenza importante perché saranno i 40 anni del Teatro Ridotto e vorrei citare anche lo spettacolo che ci sarà il 23 aprile con la regia di Renzo Filippetti. Lo spettacolo del 23 aprile dalla regia di Renzo Filippetti è uno studio fatto con lui, sull'ultima notte della poetessa Silvia Plath. È uno spettacolo che ha debuttato a Cuba nel 1992, ma quest'anno l'abbiamo voluto riprendere in omaggio a Renzo Filippetti per il suo terzo anniversario di morte. E come sempre la stagione si concluderà a settembre. A settembre con un evento aperto al pubblico, ma alla comunità, soprattutto di bolognese e zone limitrofe, con diversi artisti che noi li abbiamo definiti sognatori di arte.